una domanda è semplice, ma perché gli Stati Uniti sono sempre in guerra? Come rispondono i politici, bisognerebbe chiederlo a loro. Anche gli allenatori, no, i giocatori. Però in realtà il nostro compito è quello di cercare di capire e di spiegare. A questa domanda in particolare risponderò in termini molto, molto generali, perché è una domanda che riguarderebbe davvero tutta la storia degli Stati Uniti, perché nella storia dell'Occidente, negli ultimi 200 e qualcosa anni, credo che non ci sia nessuna nazione che ha fatto così tante guerre in guerra come gli Stati Uniti. Dico guerra in questo caso, lo intendo anche in termini che vengono in realtà fuori anche dai discorsi che mi hanno preceduto, cioè guerra non più soltanto in termini classici, una nazione dichiara guerra contro un'altra nazione e fa la guerra. Guerra sotto forma di guerre non dichiarate, la più nota e la più famosa è quella del Vietnam, ma anche guerricciole, anche interventi questo, credo che non ci sia nessuno come gli Stati Uniti che ha fatto, nessuno che ha fatto tante guerre come gli Stati Uniti. Aggiungo anche una cosa, bisognerebbe tener conto anche di quelle altre, nel ragionare sugli Stati Uniti e la guerra, bisognerebbe tener conto anche di quelle altre guerre che in realtà poi ci sfuggono un po', perché ci sono sempre state presentate sotto forma di mito, e di mito dell'uomo virile, che sono le guerre per la conquista del continente, le guerre fatte ai danni dei nativi americani. E anche quelle sono guerre, e sono guerre che sono durate praticamente per tutto l'Ottocento, anche prima, ma prima erano colonie inglesi. Ma durante tutto l'Ottocento questa è stata una costante. Perché? Perché forse gli Stati Uniti, diciamo, per due ragioni essenziali. Uno, gli Stati Uniti sono come Eva che si distacca dalla costola di Adamo, cioè si distaccano dalla prima e più grande e più potente potenza imperialistica del mondo moderno, cioè la Gran Bretagna. Gli statunitensi bianchi, anglosassoni, sono sostanzialmente degli inglesi trapiantati, e quindi sono degli inglesi che si comportano sul continente americano con tutto il bagaglio di storia, di cultura che gli viene dalla madrepatria, e la madrepatria è l'Inghilterra. Gli inglesi sono stati prima degli Stati Uniti nel territorio che poi è diventato Stati Uniti dall'inizio del 600 fino alla sconfitta nella guerra d'indipendenza, cioè intorno ai tre quarti del 700, quindi sono stati per più di un secolo e mezzo, quasi due secoli. E allora gli Stati Uniti prendono da lì. Gli inglesi nel frattempo avevano costruito le loro colonie in molte parti del mondo, e nel corso dell'Ottocento hanno continuato a impadronirsi dei territori da tutte le parti del mondo. Alla fine dell'Ottocento erano di gran lunga la maggiore potenza imperiale mondiale, quindi coloniale e imperiale mondiale. Quindi da una parte c'è questa matrice, dall'altra c'è una serie di circostanze che hanno permesso a questa matrice, a queste aspirazioni, alla conquista, all'espansione, al possesso, hanno permesso di applicarsi. Cioè il fatto di avere un grande continente, diciamo così, alle spalle, e di avere delle popolazioni progressivamente sempre più indebolite, prima di tutto dalle malattie che i bianchi avevano portato con sé nel continente nordamericano e poi progressivamente, relativamente, in modo relativamente facile, eliminabili, dato appunto, data la asimmetria della potenza, i bianchi anglosassoni erano infinitamente più potenti degli indiani, e quindi era talmente invitante la presa di possesso di questo territorio che una razza conquistatrice, come loro stessi hanno definito se stessi, non può tirarsi indietro. Quindi queste sono le ragioni dello straordinario numero di guerre degli Stati Uniti. Poi naturalmente la potenza è come il denaro, no? Il denaro genera denaro, la potenza genera desiderio, la potenza genera tentativi di realizzazione o aspirazione alla realizzazione di questa potenza. Però non voglio neppure prenderla così da lontano, perché altrimenti non la finisco più e finisco per fare una lezione di storia che in realtà non voglio fare. Voglio prenderla invece dall'altro capo, cioè non a partire dall'inizio ma a partire da oggi. E vorrei prenderla da alcune delle considerazioni che sono state fatte prima e da alcune delle immagini che abbiamo avuto tutti sotto gli occhi in questi giorni. Allora, pensate un momento all'alluvione, perché è più che l'uragano è l'alluvione di New Orleans, e le immagini che abbiamo, oltre a quelle delle migliaia di persone sbandate, lasciate a se stesse e così via, una delle immagini che a me poi ha colpito di più è, alcune delle immagini che mi hanno colpito di più sono quelle dei blindati con i soldati in assetto di guerra che passano in mezzo alle strade o in mezzo alla gente, che in alcuni casi inveisce contro i blindati e contro i soldati. Cioè sembrava di vedere, se non ci fosse stata l'acqua sullo sfondo e se la gente non fosse riconoscibilmente americana, neri e obesi, e quindi indiscutibilmente americani, sembrava di assistere ad una scena di Baghdad. Dall'altra parte, la considerazione che facevano loro un momento fa, cioè il fatto che una parte della guerra in Iraq è fatta da dei civili, cioè ci sono circa 30-35 mila civili che stanno facendo la guerra in Iraq, e quindi c'è questa sovrapposizione tra i militari che invece di aiutare la gente vanno in mezzo alla gente con le armi in mano, e dall'altra parte la guerra che viene fatta fare dai civili. Cioè c'è una specie di mescolanza, di costruzione di un equivoco storico che lascia da molti punti di vista esterrefatti. Come si arriva a questo paradosso? I militari che vanno a fare la guerra nelle zone alluvionate e i civili che vanno a fare la guerra in Iraq. Da una parte ci sono alcuni dei ragionamenti che sono stati fatti, dall'altra c'è una serie di considerazioni che vanno poi di più nella direzione del tipo di studi che faccio io sugli Stati Uniti, cioè studi della società statunitense. Intanto la privatizzazione di tutto. Per cui anche la guerra diventa un fatto che va privatizzato, esattamente come le prigioni, esattamente come l'economia, esattamente come una quantità di attività e di provvidenze. L'ultimo dei tentativi macroscopici di Bush, che per fortuna è stato, almeno per ora, bloccato da una sorta di sollevazione generale, sindacale, dell'opinione pubblica, dei giornali e così via, è stato il tentativo di privatizzare la social security, cioè l'assistenza pubblica. quel poco di assistenza che esiste ancora negli Stati Uniti doveva essere privatizzata. Cioè il ruolo del governo deve essere sempre più ridotto a favore dell'iniziativa privata. Ora, questa è una forma di, secondo me, dal mio punto di vista, sto ovviamente anticipando dei miei giudizi, che tra l'altro nel libro cerco anche di, nel libro e altrove, cerco anche di articolare, sostenere, argomentare e metterci delle prove a sostegno di queste affermazioni. Qui ovviamente non lo posso fare, ma sono proprio una forma di, dal mio punto di vista, degenerazione del pensiero economico, sociale e politico. Cioè tutto quello che lo Stato toglie alle provvidenze, al suo compito di controllore, assistente, fornitore di servizi, fornitore di benessere alla sua popolazione, lo sposta in una unica direzione. E qui torniamo al discorso che ha preceduto, cioè la direzione della guerra. Cioè la società può andare a ramengo, lo Stato si riserva l'unico compito, quello di attrezzarsi per la guerra e di fare la guerra, arrivando a teorizzare nel settembre del 2002 la possibilità e il dovere, dal proprio punto di vista, di fare la guerra preventiva, come era scritto nei documenti della Casa Bianca, in particolare questo sulla sicurezza nazionale del settembre 2002, su almeno 3 teatri di guerra contemporaneamente e 3 guerre di grandi dimensioni. Ora, qui sembra, i miei amici hanno citato una serie di teorici e di pensatori, sembra di tornare al tempo di Hobbes, quello che diceva che ogni uomo è come un lupo per ogni altro uomo. Allora lo Stato si riserva il compito e il diritto di essere il lupo nei confronti di chiunque, inclusi i propri cittadini. Infatti l'esercito che è stato mandato a New Orleans non è stato mandato per salvare le persone, è stato mandato per controllare socialmente le persone che ancora non erano morte. Ci sono pezzi di giornale, alcuni dei quali mi sono portato dietro, di giornali che sono il Washington Post, il New York Times, cioè i grandi giornali che non sono certamente né il Manifesto né l'Unità né i giornali della sinistra internazionale, che raccontano. Ce n'è uno in cui si racconta di un morto ammazzato che è rimasto 4 giorni sulla strada con le truppe che continuavano ad andare su e giù, e l'unica cosa che hanno fatto queste truppe è stata quella di mettere, sapete, i coni di gomma, quelli che si mettono sulle strade quando c'è da fare la deviazione. Ci hanno messo 4 coni di gomma intorno e lo hanno lasciato là, a marcire letteralmente per 4 giorni. Ecco, il senso di questa cosa, l'interpretazione di fatti di questo genere, non può che partire da una domanda: ma è possibile che l'unica chiave di interpretazione della realtà sia quella della guerra? È possibile che siamo arrivati al punto che l'unica forza, con le virgolette o senza virgolette, che gli Stati Uniti riescono a mettere in campo in qualsiasi situazione difficile, di emergenza, di difficoltà per la popolazione, sia passi attraverso l'imposizione del controllo armato, a fronte del quale naturalmente, come abbiamo visto, letto e sentito, sta la assoluta inadeguatezza dei soccorsi. D'altro canto, quelli che hanno mandato a New Orleans sono i soldati della Guardia Nazionale. Un terzo dei militari della Guardia Nazionale della Louisiana e del Mississippi sono in Iraq a far la guerra. Tra l'altro, paradosso che è stato sottolineato da vari giornali negli Stati Uniti, sono andati a fare la guerra in Iraq e si sono portati dietro anche i mezzi anfibi, in mezzo al deserto con i mezzi anfibi. Quindi ci sono anche delle incongruenze un po' curiose. Dall'altra parte, tutta la parte più grande e più radicale della polemica nei confronti dei ritardi dei soccorsi, della trascuratezza nei confronti di una intera situazione geologica, diciamo così, oltre che sociale, è stato il fatto che gran parte di quelle zone, come sapete tutti ormai benissimo, sono sotto il livello del lago del lago Pontchartrain, che sta a nord di New Orleans, e del mare che sta a sud di New Orleans. Per cui tutte quelle zone hanno dovuto storicamente essere protette da un sistema di argini, di canalizzazioni che dovevano impedire che delle piene del lago o del fiume del Mississippi potessero debordare e quindi allagare queste zone. Benissimo, esistono i rapporti che poi tutti i giornali hanno citato, esistono i rapporti che dicono gli argini per incuria si sono abbassati almeno di 1,20 m in molti punti. A questo punto esiste un pericolo molto grave che questi argini, uno, si siano troppo bassi, due, che essendo mancanti di manutenzione possano cedere. Di fatto quello che è successo è che hanno ceduto, ma questi rapporti scientifici e tecnici esistono dalla fine degli anni 90. Però i fondi per questi interventi sono stati progressivamente sottratti dallo Stato federale per investirli nella guerra e nella preparazione per la guerra. Ecco che allora questo fatto della guerra entra in modo drammatico con dei fatti che con la guerra non dovrebbero avere niente a che fare. Un altro punto, naturalmente, qui non posso non leggere le dichiarazioni, le mamme, la dichiarazione della mamma del presidente Bush, che a Houston, che è una delle grandi città del Texas, insieme con il marito è andata a visitare, è passata vicino a uno dei luoghi in cui erano concentrati gli sfollati e poi ha fatto un commento. E anzitutto, sto citando letteralmente dal New York Times, anzitutto, quello che sto sentendo fa abbastanza paura se questa gente vuole fermarsi e vivere in Texas. Cioè, la preoccupazione è che i poveracci neri, poveri, ignoranti, obesi della Louisiana e del Mississippi vadano a stare in Texas. E poi li guarda negli accampamenti in cui si trovano e dice, no, non gli accampamenti, sta parlando in modo specifico dell'Astrodome di Houston, cioè la grande arena coperta di Houston, e dice, certo, così tanta gente qui nell'arena, però erano underprivileged comunque, erano dei miserabili comunque. E quindi alla fine dice, so this is working very well for them. Cioè, ve lo dico anche in inglese per evitare che qualcuno pensi che lo traduco malamente. E dice, alla fine quello che è successo funzionerà molto bene per loro. Ecco, questa è anche Sì, sarà la loro fortuna. Questa è la sensibilità di questa gente. Sono cattivi, sono stupidi, sono forse un po' dell'uno e un po' dell'altro, ma soprattutto sono dei multipluri miliardari. Cioè hanno una specie di deformazione visiva che gli impedisce di vedere la realtà. E infatti naturalmente una gran quantità di critici hanno rimproverato alla presidenza, all'amministrazione, a Bush il fatto che non abbiano saputo vedere la realtà, ma perché non hanno gli occhi per vederla, quella realtà. Quale realtà? La realtà del fatto che nelle zone allagate di New Orleans e nelle zone costiere della Louisiana e del Mississippi la stragrande maggioranza della popolazione è costituita di afroamericani poveri. E potrei aggiungere afroamericani poveri, ignoranti, malnutriti, obesi appunto, malnutriti, malvestiti, ai margini della società. E quindi questa gente non la si vede con gli occhi del multimilionario, con gli occhi di chi pensa a far la guerra in giro per il mondo e è interessato al petrolio e al controllo dei pozzi di petrolio e alla produzione di petrolio e alla distribuzione del petrolio al proprio interno e possibilmente alla distribuzione del petrolio che non vada a favorire per esempio la Cina. Ecco, per chi è orientato a vedere solo questo della realtà mondiale, questa realtà non è visibile, non cade sotto gli occhi. In uno dei primi pezzi pubblicati dal Corriere da parte di Gianni Riotta, Gianni Riotta scriveva: chi dice che c'è una corrispondenza tra disinteresse, povertà e razza, dice una grande bugia e di fatto costruisce una mistificazione di cui dovrebbe vergognarsi. Naturalmente Riotta rispondeva di fatto a una certa quantità di personalità statunitensi che avevano, e anche non statunitensi, che avevano notato immediatamente questa straordinaria coincidenza. Quella gente, quei disgraziati, sono appunto poveri afroamericani. Bene, ieri sera il presidente Bush, nel tentativo di recuperare un pochino di credibilità presso i suoi concittadini, che finalmente stanno anche capendo in misura superiore al 50%, che questo signore è un malfattore, è andato in televisione e ha detto e ha ammesso da una parte i ritardi, le inadempienze, le inadeguatezze e la vergogna della mancanza dei soccorsi e dall'altro ha ammesso, come riportano i giornali di oggi, che effettivamente quella gente è stata un po' dimenticata perché si tratta di neri e poveri. Adesso vorrei vedere se domani Riotta scrive un altro pezzo sul Corriere e dice no, effettivamente mi sono sbagliato, tant'è vero che il Presidente ha negato quello che io avevo detto. Non è per prendermela con Riotta, è per prendermela con alcune delle disinformazioni e delle cattive interpretazioni e dei tentativi da parte... Permettetemi di usare, siccome ho ancora mezzo minuto, di usare un'espressione un po' rozza, un po' volgare, ma per dare l'idea. Cioè il servo è sempre più sciocco del padrone, sì, spesso è più sciocco del padrone. Ecco, in questo caso Riotta è più sciocco del padrone che vorrebbe servire. Tant'è vero che il padrone alla fine, svegliato un pochino dai suoi consiglieri che gli fanno capire che o cambia registro oppure ci rimette quel poco di credibilità che ha, è costretto a fare marcia indietro. Questi sono i punti essenziali. Un'amministrazione, una politica che non è in grado e non è capace, perché non vede la realtà e non è in grado di gestire la realtà sociale del proprio paese, e che pure dall'altra parte ha questa idea del dominio mondiale e non vede altra possibilità per esercitare questo dominio che quello di attrezzarsi per la guerra e di continuare, secondo la tradizione a cui ho fatto riferimento prima, la tradizione pluricentenaria degli Stati Uniti, che fanno la guerra in ogni parte del mondo a difesa dei propri interessi, a difesa delle proprie possibilità espansive, sia che siano territoriali, sia che siano economiche. E tuttavia, proprio questo privilegiamento impedisce poi che la società più ricca del mondo, perché gli Stati Uniti poi sono ancora questa cosa qui, riesca a gestire quel 12,7% di poveri che sono presenti al proprio interno, che in zone come quella di New York arriva intorno al New Orleans arriva intorno al 50%, che sia incapace di gestire il livello spaventoso di analfabetismo e di quasi analfabetismo che tocca metà della sua popolazione, che sia incapace di dare ai propri lavoratori un salario minimo superiore ai $5.15 che è fisso dal 1997 su quel livello e non si schioda, che sia incapace di mettere la propria economia in grado di fornire salari ai propri lavoratori nel 2005 che siano almeno al livello del 1973, cioè i livelli salariali odierni negli Stati Uniti sono di alcuni dollari più bassi di quelli del 1973. Ecco, questa è la realtà sociale che fa da contraltare alla enorme quantità di soldi che gli Stati Uniti spendono per la guerra in giro per il mondo.